You've got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? You've got to give a little, take a little. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento di Radio 24 dedicato alla identità, alla migrazione, alle persone che hanno radici altrove, come noi diciamo, sempre introdotti dalla musica e dal sonoro di questo film Indovina chi viene a cena, dal quale abbiamo rubato il titolo. Questa sera a Radio 24 abbiamo a cena uno scrittore originario di Belgrado, commerciante in provincia di Venezia, autore di Vita migliore, che in libreria il 16 di aprile per Bompiani, ed è il vincitore del talent della RAI sulla scrittura, sulla letteratura. Io do la buonasera a Nicola Savic. O Nicola Savic. Buonasera a tutti. Come si pronuncia il suo nome innanzitutto? In serbo si dice Nicola Savic, e quindi io quando lo sento in italiano è abbastanza diverso dal Nicola. Come sempre con i nostri ospiti partiamo da un piatto, da una ricetta, da qualcosa che ci parla un po' di lei, della sua identità, della sua cultura, magari del paese da dove viene oppure del paese da dove vive attualmente. Allora, il piatto mio preferito in assoluto sono i scampi alla buzzara. Sono un grande divoratore di frutti di mare e sono molto ghiotto di scampi. Penso che scampo è il nettare degli dèi. Mentre il piatto, diciamo, forse è più importante della mia vita, quello che ha cambiato la vita, sono invece i peperoni ripieni, che è proprio della cultura nostra. Che quindi è un piatto di serbo, sì, di Belgrado. Ho deciso di licenziarmi e quindi di cambiare la mia vita e dare tutto per tutto su questa strada dello scrivere e dell'arte. L'ho fatto perché sono tornato da un viaggio e la mia nonna mi ha presentato un piatto di peperoni ripieni. Me le mangiai, non dormì tutta la notte e quindi, non potendo dormire, ho pensato, e alla fine di questa meditazione indotta dalla pietanza a peperone ripieno, mi sono chiamato, mi sono licenziato e da lì è cominciato tutto. Un anno fa a quest'ora cosa stava facendo lei? Più o meno un anno fa a quest'ora stavo finendo di fare la terza revisione al romanzo e lo stavo mandando, mi stavo preparando a stamparlo e mandarlo a tutti. Ovviamente aveva una condizione mentale molto diversa da quella di adesso, immagino che sia molto contento di questa vittoria. Sì, sono molto contento, sono anche... non so come altro dire questa cosa, sto navigando nelle acque a me non conosciute, perché ho come impressione che questa vittoria sia stata solo un inizio è che adesso stanno per succedermi cose come questa, no? Intervista alla radio, intervista per i giornali e la presentazione del romanzo. Sono molto felice di questa cosa perché non vedo l'ora di... Cioè, non avrei pensato in realtà che mi sarebbero successe tutte queste cose. Sono due dialoghi che sentiremo. Da leggere a due voci, i primi due saranno Susanna e Nicola, però vi chiederei a Nicola, in questo caso l'autore, di inquadrarlo nell'ambito del suo romanzo. Dov'è? In poche parole. Questo ragazzo che è stato via dai quartieri per 3 anni è ancora follemente innamorato di una ragazza più grande di lui. Non si sono visti per 3 anni e mezzo, quasi 4 anni, e lui la rincontra dopo 4 anni. Sì, ma dimmi, hai la ragazza? No, in Italia non è come da noi. Lì se non hai la macchina non ci sono tanti posti dove andare. E la sera, dove abito io, già alle 9 si chiudono gli scuri e la città sembra la città dei fantasmi. Con gli amici ci si esce il sabato o si scappa dalla scuola. Bene, anch'io esco tanto ultimamente. Vado fuori con le mie colleghe di università, sai, a bere qualcosa e poi di solito ci portano nelle discoteche. Chi? Beh, i ragazzi. Tu stai con qualcuno adesso? Sì, si chiama Damian, ha 27 anni e... Vuoi che ti faccia vedere la foto? No, guarda, si è fatto tardi e poi devo andare dalla nonna. Ma almeno finisci la coca. Sì, guarda, la bevo. Ma tu la ragazza, dicevi che non riesci a trovarla? No. Con tutte quelle italiane carine e curate? No, ho il ragazzo. Mi piacciono i ragazzi. Dall'estate scorsa che un tedesco al mare mi ha baciato, mi piacciono solo i ragazzi. Mi prendi per il puntini? Ragazzi, puntini? Ragazzi biondi con un sacco di muscoli e devo andare. Dalla nonna? No, vado in Città Vecchia a rimorchiare un bel biondo, ciao. Ciao. Sono molto contento, sono anche, non so come altro dire questa cosa, sto navigando nelle acque a me non conosciute, perché ho come impressione che questa vittoria sia stata solo un inizio, e che adesso stanno per succedermi cose come questa, no? Intervista alla radio, intervista per i giornali e la presentazione del romanzo. Sono molto felice di questa cosa perché non vedo l'ora di... Cioè, non avrei pensato in realtà che mi sarebbero successe tutte queste cose. Questo sinceramente, mano sul cuore, non me l'aspettavo. Un anno fa non lo immaginava? No, poi la mia partecipazione a Masterpiece è stata fortuita, nel senso che io stavo mandando libri ovunque, mi è arrivata questa, sai, la telefonata di un'amica, cioè che una signora, moglie di un mio amico, che mi ha detto: ho visto questa cosa sulla Rai, prova a mandare anche lì, sai, quelle cose lì che capitano, uno dopo... lo fa un po' per gioco e poi viene risputato fuori da questo marchingegno televisivo come uno scrittore. Vedremo. Uno scrittore che ha dovuto combattere nelle ultime puntate contro altri agguerriti aspiranti scrittori, no? Cosa ne pensa delle opere dei concorrenti? Amici, tutti amici? Sono accavalato, per me sono amici. Amici, ma anche insomma rivali in qualche maniera, c'era no, competizione. No, infatti c'era pochissima competitività nell'interno del gruppo, proprio perché abbiamo legato molto, con chi più, con chi meno. Diceva che l'aveva mandato il suo romanzo, immagino, a diversi editori prima di approdare a questo talent. E che risposte riceveva? Era in simultanea. Ha ricevuto delle risposte nel frattempo dagli editori? Sì, quelle solite, tipo ci faremo sentire noi tra 6 mesi. Se tra 6 mesi non ha nessuna risposta da noi, consideri che non siamo interessati. Solite risposte. Quindi per lo più negative? No, gli editori italiani non leggono quando tu li mandi. Se sei fortunato, se hai qualche amico che segnala qualcuno qualcosa, forse ti leggono. Però diciamo la lettura avviene all'interno del minimo dei 6 mesi dopo che l'opera è stata spedita. Da questo punto di vista, insomma, il talent è stato l'unico modo per emergere? Assolutamente no, io sono convinto che avrei pubblicato questo libro altrimenti, cioè, stavo scherzando. Senta, questo libro, no, è scritto in una lingua, l'italiano, che non è la sua lingua d'origine, quindi è stato anche per questo forse di grande interesse l'idioma che lei utilizza, no? È un idioma meticcio, no? Sì, è un idioma, io spesso dico che è come quando qualcuno ti presta una macchina, nel senso che tu la sai usare, lo usi come la tua, solo che lo usi un po' meglio, nel senso che sei più attento a quello che fai, magari anche con più rispetto, no? Perché non vuoi fare la figuraccia con qualche tuo amico che ti è stato gentile a prestarti la macchina. Io ho avuto degli ottimi maestri di italiano, ho avuto una signora che si chiama mia professoressa Gigliola Scienzi, che durante gli anni di superiori mi ha insegnato tanto. Non mi ha insegnato le doppie, ma mi ha insegnato cose molto più importanti, sul scrivere ma anche su vivere. E questo io le sarò eternamente grato e sono molto felice di citarla e di dirle anche adesso grazie. You've got to give a little... Indovina chi viene a cena. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo di letteratura con uno scrittore originario di Belgrado e in libreria con il suo libro, un esordio, Vita migliore. È un romanzo che ha vinto il Talent Masterpiece. Lui è Nicola Savic. Con lei stavamo parlando della sua lingua, no? Io ho letto delle recensioni e anche per quello che io ho letto del suo romanzo, in effetti è una lingua interessante, che è punteggiata da licenze linguistiche, slang, parlato, in certi punti non è un italiano magari correttissimo, però molto affascinante. Il problema è costruito, voglio dire, tutto questo, oppure è spontaneo? Il problema è stato, c'è una scelta, perché parla dei quartieri di Belgrado. I ragazzi nei quartieri hanno una lingua autonoma, anche dagli adulti, ma anche rispetto agli altri belgradesi. È una lingua molto viva che diciamo nasce da questo agglomerato di persone enormi, nel senso nel mio palazzo ci sono 1000 persone e sono chilometri e chilometri di questi palazzi più o meno tutti uguali che si susseguono e quindi la mia vita diciamo da bambino fuori nel quartiere era con altri 70 bambini che erano solo del mio palazzo. Cioè, questi sono, e quindi la lingua che si parla nei quartieri è una lingua diversa e quindi quando ho cominciato a scrivere ho dovuto fare delle scelte per mettere le parole italiane in bocca a questi ragazzi in modo da far capire che loro parlano in modo strano. Quindi è proprio il tentativo di riprodurre linguisticamente questa realtà, questa diversità. Durante la lavorazione, no, io all'inizio avevo scelto per lo più, diciamo, un bolognese dei ragazzi, quella un po' la lingua che si può trovare nell'Andrea Pazienza. Invece dopo, piano piano, ho capito che dovevo usare anche dei lessemi del romano, del milanese, insomma, ho fatto anche questo miscuglio. Raccontiamo qualcosa anche di questo romanzo, della trama un pochino di questo romanzo. Pare un po' autobiografica, sì, tutto ambientato negli anni Ottanta fra la Serbia e l'Italia dove lei è venuto a vivere. È autobiografico? Sì, ci sono delle cose autobiografiche. Le emozioni sono autobiografiche, indubbiamente. Le situazioni, quello che succede, magari è inventato. Ringrazio i miei genitori per i nomi. E per certi lati del carattere, chiaramente non sono miei genitori, spero che lo capiscano. La stessa cosa vale per molti miei amici, molti personaggi sono amici che ho davvero, molti personaggi hanno solo i nomi di amici che ho e molti personaggi sono completamente inventati. È la storia di un adolescente, quindi un romanzo di formazione, di una crescita e anche di una migrazione, no? Quanto è stato importante per lei questo passaggio dalla Serbia all'Italia e ce lo racconta innanzitutto che cosa, com'era la sua vita in Serbia, che cosa faceva e quando è arrivato in Italia? Sono arrivato in Italia a 12 anni e mezzo, io stavo fuori con i miei amici fino all'una di notte, quasi tutti i giorni, anche perché noi eravamo troppi, quindi la scuola funziona in due turni, cioè noi andavamo a scuola o da mattino o il pomeriggio, quindi quando andavi a scuola di pomeriggio la mattina dormivi, allora noi stavamo, cioè tornavi dalla scuola alle 8 di sera, mangiavi, uscivi e stavi fuori fino all'una. Questo a Belgrado? Sì, e poi sono venuto a stare in provincia di Venezia, a Mira, là dove abito tuttora. È un posto che io adoro e penso sia un posto meraviglioso, a cui voglio proprio bene, mi piace proprio abitare qua. Però per me è stato un grande shock, uno perché non c'erano bambini, non c'erano amici, non c'era nessuno, e due perché qua ci sono i balconi che si chiudono alle 8 di sera, quindi la città alle 11 sembra la città dei fantasmi. Questo è stato un shock per me, anche perché quando uno emigra oppure immigra, dicendo come lo vedi, uno si trova spaesato. In Italia i ragazzini hanno un altro ritmo di vita, un altro ritmo di crescita, laddove io a 12 anni già andavo, cioè prendevo l'autobus con gli amici, andavo a vedere, andavo al cinema nella città vecchia, era una cosa normale. In Italia non si fa, quindi io diciamo. Quindi come si è adattato, come è riuscito a integrarsi? Alle superiori ho degli amici che ancora sono miei amici delle superiori, e lì ho ricominciato a vivere, nel senso che ho costruito delle amicizie che mantengo tuttora, e con questi ragazzi ho instaurato un rapporto, diciamo, più simile a quello che avevo con i miei amici a Belgrado. Vita migliore, il titolo del romanzo, sì. È proprio un titolo che sembra il titolo di tutte le storie di immigrazione, cercare una vita migliore. È questo il significato del titolo? Il romanzo parla di cosa succede quando qualcosa di enorme, vedere guerra civile, incombe su una società e su delle persone che di fatto non hanno nessuna responsabilità in queste cose. I quartieri di Belgrado erano e sono tuttora una realtà multietnica, dove c'erano i figli dei militari che venivano quindi da tutta la ex Jugoslavia, mischiati con i belgradesi oppure con altra gente della provincia, che sono tutti venuti durante gli anni 80 perché c'era una espansione economica enorme di Belgrado. I ragazzi che crescono lì, e questo si vede nel libro, non sono ragazzi serbi, non sono ragazzi, sono ragazzi europei, sono ragazzi che guardano film americani, sono ragazzi che sono anche liberi un po' dai genitori, no? Perché proprio vivendo a gruppo di tanti ragazzi, poi lì si instaurano meccaniche di gruppo diverse. Quel quartiere lì, il mio quartiere è a Belgrado, però potrebbe benissimo essere a Milano. E a queste persone capitano le cicatrici che porta un conflitto orribile come quello civile. Queste persone, non se la maggior parte di persone, sia adulti che questi ragazzi, non si aspettavano questa cosa, ovvero non hanno partecipato attivamente né all'odio né alla creazione dell'odio, né all'odio, cioè, nel senso, la maggior parte di noi non è neanche. C'è un capitolo proprio che i ragazzini parlano, e io questa cosa me la ricordo, cioè in classe mia. Era raro qualcuno che avesse tutti e due genitori serbi, no? Mm-hmm. Certo. Soprattutto i figli dei militari, di solito hanno la mamma di una parte, il papà di un'altra, vivono in un altro posto ancora. Come si passa dal vivere in una periferia come quella che ci ha descritto, che in effetti potrebbe essere la periferia di Milano, come si arriva invece a scrivere un romanzo da questa esperienza? Ma è anche un po' un passaggio dovuto per me, perché tutte queste cose che succedono lasciano una specie di deposito emotivo, no? In fondo da qualche parte. Allora uno si trova di fronte alla scelta, ignorare queste cose e continuare ad andare avanti, oppure se succedono, vedere di prima, incontro con il peperone ripieno, e quando si comincia a meditare un po' più su quello che succede, allora si comincia a essere consci che forse è proprio quel substrato di emotivo, no? Quel deposito, no? Che è la cosa vera, la vita sta lì e non nella maschera che uno porta quotidiana con quale cerca di difendersi dai possibili dolori del futuro. In Serbia è tornato di recente, torna? Sì, tornavo, adesso sono quasi 6 mesi che non ci torno, sono tornato ultimamente perché è morta mia nonna. Quando è stato prima di partire la nonna che cucinava i peperoni? No, l'altra. Anche lei cucinava i peperoni. E i piatti, gli odori della sua infanzia, come li ricorda? A casa sua c'era tradizione di cucinare insieme, mangiare assieme? No, ma insomma, quando ero piccolo mi guardavo una zingara, che si chiamava Zora, che veniva perché i miei genitori lavoravano insieme. La società che era lì è una società socialista dove donne sono molto emancipate, lavorano e... Poi quando siamo andati a vivere a Nuovo Belgrado, che ormai avevo cominciato ad andare a scuola, quindi avevo 7 anni, sono passati dalla città vecchia alla città nuova, dopo un po' venne anche la nonna a abitare con noi. Io sono cresciuto in 60 metri quadri e abitavamo io, mio fratello, mia mamma, mio padre e mia nonna. Ed è una cosa normale, cioè addirittura io rispetto a molti altri avevo anche la casa un po' più grande. Cucina serba. La cucina serba è una cucina eterogenea che ha subito le influenze mediterranee, turche e dell'impero austro-ungarico. Un pranzo tradizionale serbo si apre con la korba, minestra con carne o interiora di vitello, che ha il compito di preparare il fisico al piatto principale, di solito un abbondante e saporito piatto di carne. Da provare anche un classico della tradizione gastronomica serba, il pasuli, una densa minestra di fagioli bianchi insaporita da spezie e pezzetti di carne di maiale, e le trippe, schembici, nella minestra con paprika dolce o piccante, o ancora più sostanziose, impanate, fritte e servite con salsa tartara. A questo punto entra in scena la carne, che può essere considerata senza dubbio la regina suprema dei piatti serbi. Tra le carni alla griglia gli attori principali sono i cevapcici, piatto diffuso in tutti i Balcani che consiste in polpettine di manzo o carne ovina dalla forma allungata. Seguono nella classifica dei piatti più amati i rasnici, spiedini di carne, e la pleskavica, una sorta di hamburger di carne macinata e speziata. Coltivando sempre queste sue ambizioni letterarie, però ha fatto per anni il commerciante, no? Prima aiutavo mio zio con una ditta edile, poi ho fatto questo tutto dopo l'università, dopo che mi sono laureato. Poi ho fatto il commerciante con le macchine usate e facevo un sacco di, insomma, ero molto bravo. E io lavoravo per le ditte in Serbia e poi ho fatto dirigente di McDonald's, Belgrado. Avevo la mentalità aziendale, avevo anche dell'imprenditore, nel senso io ho avuto ditte mie in Slovenia, eccetera, ho avuto tanti dipendenti sotto di me, però non ero io, ero il prototipo di, sai, uomo ambizioso in affari. In quel periodo non stavo vivendo io, stavo vivendo la mia maschera, stavo vivendo qualcos'altro, e io non stavo mica bene. E vita migliore quando hai iniziato a scriverlo? La vita migliore ho iniziato a scriverlo prima di prendere lavoro da McDonald's, quindi quando ho venduto le mie ditte in Slovenia di trasporti per le macchine, quando ho smesso di fare il commerciante di macchine usate, e poi mentre aspettavo, perché comunque mi avevano preso perché devo aspettare un po' di tempo per prendere il lavoro a McDonald's, e in quel periodo lì ho cominciato a organizzare i testi che già avevo accumulato durante gli anni. Poi in realtà la verità è che ho dovuto riscrivere tutto. E quindi io purtroppo scriverò e continuo a scrivere. Poi se riesco anche a avere la libertà, perché si tratta di libertà, di scrivere e basta, allora sarà un bel vivere. Altrimenti si abbassa la cresta e si torna a lavorare qualcosa. Ma tanto non è che posso smettere di scrivere. Grazie, io la ringrazio molto per essere stato con noi questa sera. In bocca al lupo. Grazie per questo splendido libro che tra l'altro 100.000 copie, insomma, far tremare i polsi, un bel successo. Intanto, se non altro, pubblicare in 100.000 copie è già molto bello, no? Poi un esordio, quindi... Esatto. Io spero che... comprate il libro! Dal 16 aprile in libreria Vita Migliore per Bompiani, in bocca al lupo. Crepi, grazie tanto di avermi ospitato. E grazie, buona serata. Ho parlato anche delle pietanze nostre. Buona serata. Buona grazie. Serata. Ugnena paprika o peperoni ripieni di Belgrado. Ingredienti: 400 g di carne di manzo macinata, 100 g di riso, 4 peperoni rossi, cipolla, sale, pepe, olio, concentrato di pomodoro, brodo vegetale, foglia di alloro, vino rosso. Tritate finemente la cipolla, soffriggetela in un filo d'olio. Aggiungete la carne e cuocetela per un quarto d'ora circa. Aggiungete del vino rosso e fate evaporare, salate e pepate. Spegnete il fuoco e aggiungete circa un etto di riso. Mescolate. Tagliate la cima dei peperoni in modo da creare un contenitore. Riempite i peperoni, lasciando un po' di spazio perché il riso si gonfierà in cottura. Mettete poi in una pentola capiente i 4 peperoni, copriteli fino a 3/4 dell'altezza con dell'acqua o del brodo caldo e aggiungete una foglia di alloro e del concentrato di pomodoro. Aggiungete dell'acqua o del brodo e cuocete fino a cottura completa dei peperoni in forno a 180 gradi per circa 2 ore. L'appuntamento è sempre sulle frequenze di Radio 24, sabato prossimo alle 23 per un'altra storia italiana con radici altrove. Buona serata a tutti, da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of